Summertime di Elisabetta Fiorito. Buon pomeriggio, lo so, lo amiamo e quindi lo mettiamo spesso, Giacomo Puccini. E proprio oggi abbiamo in studio, anzi in collegamento con l'aldilà, proprio Giacomo Puccini. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Maestro, qual è il suo rapporto con le donne? Beh, direi meraviglioso, ne ho ben scritte per 14. 14 creature musicali a cui ho dato felicemente la vita. E in tutte le sue opere le donne però hanno sempre epiloghi sfortunatissimi. Perché? Beh, diciamo perché nel teatro bisogna cercare di trovare tutti i condimenti più giusti, nel teatro bisogna vincere, per cui io ho sempre cercato di compensare le cose mettendo un po' di tutto, ma non tutte le mie opere sono state... Diciamo hanno avuto degli epiloghi tragici, perché c'è anche Gianni Schicchi, ci sono delle cose anche molto comiche, molto pregevoli in questo senso. Maestro, ma è vero che lei era un po' scavezzacollo e anche un grande amatore, un Latin lover? Dicono probabilmente tutte bugie. Lavoravo moltissimo, altrimenti non avrei potuto combinare tutti questi pasticci che ho fatto in giro per il mondo. Lavorava, e scriveva note così. Sentiamo la splendida voce di Maria Callas che ci accompagna in questa tosca e diamo chiaramente il benvenuto a Giancarlo Zanetti, che si è prestato con noi a interpretare Giacomo Puccini proprio stasera alla Versiliana. Andrà in scena questa performance Le donne di Giacomo Puccini, un concerto spettacolo dove tu, Giancarlo, interpreti proprio il grande maestro. Interpreto il grande maestro, ne leggo dei brani, ne dei piccoli commenti che hanno fatto da Giovanni Pascoli ad altri grandi che lo hanno seguito, insomma un piccolo percorso attraverso quello che è stata un po' tutta la sua vita operistica. Quindi abbiamo un po' scherzato con te, ma insomma è vero che lui era un po' scavezzacollo. Era appassionato di automobili. Tutte cose per donne. E poi era un po' sì un Latin lover. Sì, allora, sì. Donata D'Annunzio Lombardi è uno dei tre soprano che questa sera daranno vita alle opere, alle maggiori arie di Puccini. Buon pomeriggio, Donata. Buon pomeriggio. Allora, che cosa canterà stasera? Canterò le due arie di Mimì, Sì mi chiamano Mimì e Donde Lieta, poi seguirà il quartetto di Bohème insieme a Leonardo Caimi, che sarà la presenza maschile tenorile oltre a Zanetti naturalmente, e poi interpreterò la Liu e la Lauretta dal Gianni Schicchi, o mio bambino caro. Quindi ecco, qual è l'eroina che piace di più ai soprano generalmente di Puccini e qual è invece l'aria più difficile? Perché Giacomo era un po' difficilotto anche con i suoi cantanti. Beh, è difficile come questa domanda, perché in tutte le sue creature, in tutte le sue donne in tutte le sue creazioni vocali, esiste una grande difficoltà e una grande piacevolezza. Chiunque interpreti questa la musica di Puccini trova sempre questa doppia valenza. E quindi è difficile in realtà stabilire chi sia, quale sia l'area più difficile. Penso come ruolo, come impegno, credo sia Madama Butterfly e Suor Angelica, come, perché c'è un impegno emotivo enorme e un impegno psicofisico straordinario, insomma, ecco, paragonabile alla Norma di Bellini o alla Traviata di Verdi, ecco com'è. E lui sapeva bene, penso che abbia scritto questo proprio pensando a questo grande personaggio. Però ripeto, poi dipende da cosa si intende per difficoltà vocale, no? Insomma, ecco. L'estensione, le note alte, qual è la difficoltà maggiore? Insomma, anche Manon Lescaut non scherza, ma Puccini ha scritto, Puccini non aveva voglia di fare degli esercizi pirotecnici, lui aveva voglia di descrivere semplicemente i sentimenti, diceva sempre la cosa importante è di piacere e di toccare l'animo, quindi tutto quello che è anche, diciamo così, prettamente virtuosistico passa attraverso questa intenzione fondamentale, che è quella di commuovere, di piacere e soprattutto di raccontare i sentimenti della vita, che poi fondamentalmente per lui erano due, l'amore e la morte. Quindi... Insomma, una descrizione molto precisa. Giancarlo Zanetti, concordi con la nostra soprano Donata D'Annunzio Lombardi? E soprattutto... Non potrei non concordare. Qual è di questo ritratto che tu fai, immagino vestito come era vestito Puccini, no? Con, non lo so. Di fine 800, inizio 900, con questi abiti impomatati. Qual è il pensiero che ti ha colpito di più leggendo anche la sua biografia e leggendo questo testo? Diciamo, secondo me la sua forza di non cedere mai, la sua forza di rinnovarsi, la sua forza di combattere contro i librettisti, contro tutti, credo, per quel poco che ne so di Puccini, ma mi sembra un uomo di una, con un grande carattere, che ha sempre lottato, voglio dire, una Butterfly, io so che la scritta è andata male, ha rifatto dei pezzi, la rimpastata è andata straordinariamente, personalmente è una delle opere, forse l'opera che io prediligo, assieme alla Carmen, la Butterfly, e quindi anche se Bizet ha scritto questa cosa straordinaria. E quindi diciamo così che Puccini, quello che ti piace è il fatto che lui combatta e non si arrenda, anche, anche un grande genio così ha riscritto un'opera. Addirittura lui poi quando era bambino venne preso dallo zio e diceva che praticamente non aveva talento, anzi era un fallimento, non era svogliato, vedi quanto si diciamo si sbaglia, no? In alcune cose. Ma poi è anche questione molto di volontà di uno che vuole riuscire, vuole arrivare, vuole andare nel mondo, vuole essere, con un grande talento come ha, e credo che sia il più grande in assoluto Puccini. Allora ringraziamo Giancarlo Zanetti, che sarà Giacomo Puccini questa sera alla Versiliana, Le donne di Giacomo Puccini alle 21, e anche Donata D'Annunzio Lombardi che sarà una dei soprano che interpreta il grande maestro. Grazie. Grazie, grazie. Grazie a voi. E adesso ci occupiamo un attimo di qualcosa di particolare, sì, perché il teatro ha dei confini, o comunque il confine è un teatro, o il proscenio è il confine del teatro, ma non lo sappiamo. Noi sappiamo solo che basta andare fino al 28 agosto al Festival Teatri di Confine in Chiavasso, una scenografia naturale per 8 spettacoli distribuiti nella settimana di agosto. Buon pomeriggio ad Aldo Pasquero, organizzatore del festival. Buongiorno. È così? Sì, è così. Di che cosa parla il teatro di confine? Mezzo tra circo e teatro, teatro di strada? Ma parla di tante cose. Innanzitutto è un festival che è iniziato a luglio e terminerà il 1° settembre. E i 10 giorni che lei ha citato sono dedicati esclusivamente a Chivasso, che è il polo di radiazione del festival, che tocca 4 province nella regione Piemonte e una 40 di comuni. Quindi provincia di Asti, Chivasso. Asti, Alessandria, Torino e Vercelli. Quindi tutto il Piemonte, tutto... Del Piemonte. Si chiama Teatri di Confine proprio perché i confini di 4 province... È un teatro ai confini perché trova spazi che non sono necessariamente quelli teatrali, anche perché è una zona che è povera di teatri e poi è bello fare questa drammaturgia sul territorio e sugli spazi. Allora, io vedo che iniziate oggi con Houdini e Le Mocò. Da una parte Houdini e da una parte Le Mocò. insomma, si uniscono due follie. Due follie, sì. Abbiamo questo primo spettacolo che apre questa sezione a Chivasso con questi due comici clown che è in strada, perché una delle caratteristiche del nostro festival è quello proprio di seguire alcuni generi, il genere di teatro di strada, il teatro di narrazione, il teatro per famiglie, proprio per venire incontro ad un pubblico che non è abituato a andare a teatro e ha bisogno quanto mai di teatro. Poi avete domani venerdì alle 17:30 Teatro Blu Allegria, sì. Pinocchio, Allegria, dove due Pinocchio. Bidelli si dimentica e si raccontano, si perderanno poi tra le parole le avventure del burattino più famoso d'Italia. Sì. Poi avete Tracce, spettacolo ispirato addirittura agli aforismi di Ernst Bloch, quindi sì, è una cosa un po' diversa, no? Sì, con Marco Bagliani, questo grandissimo attore narratore che starà con noi 3 giorni e presenterà 2 spettacoli, anche perché il clou sarà poi domenica 22 agosto, perché partirà questo treno da Chivasso alle ore 16 e farà una serie di fermate teatrali in vari paesi per poi ritornare a Chivasso la sera, dopo aver percorso un centinaio di chilometri. E quindi l'appuntamento a Chivasso domenica dov'è? Alle ore 16 alla stazione ferroviaria. Tutti in Piemonte per assistere a Teatri di Confine, il confine tra circo, il confine tra giocolieri, tra teatro di strada, e allora non resta che andare a Chivasso. Grazie. Grazie a lei, arrivederci. Arrivederci. Arrivederci a tutti. Summertime. Da più di 10 anni sono lontana dal mio paese. Ma tu sei rimasta quello che eri? No. Sono un'altra creatura ormai. Ho tutto dimenticato. Ciò che era realtà, ora non lo è più. Ma forse, se tu volessi, tu potresti ricordarti del tuo Dio. No. Forse hai ragione. Sono restata quella che ero. Un vaso pieno di un sapere non mio. Un vaso pieno di un sapere non mio, questa era Medea interpretata nel vecchio sceneggiato da Maria Callas, ma per scoprire di più di due eroine del mondo antico, due eroine greche, eroine per modo di dire, nel senso due personaggi di rilievo, basta andare questa sera a Velia Teatro, perché va in scena Medea e Clitennestra. Sì, una sorta di rivincite delle donne, rivincita della donna, perché Angela Amalfitana rilegge proprio l'eroina del mito attraverso Dario Fo e Margaret Yourcenar. È giusto così, Angela? Sì, buongiorno, sì, è giusto quello che hai detto, sì. Allora, parliamo di Medea e poi parliamo anche di Clitennestra. Che cosa, qual è l'interpretazione di Medea in questo testo scritto, un monologo scritto da Dario Fo e Franca Rame? Come si differenzia da quello che è l'eroina della tragedia greca? Beh, intanto perché è l'unico personaggio che è in scena. In realtà sono due le voci, il coro delle donne di Corinto che interagisce con Medea, quindi questi sono i due poli, le due voci che si intrecciano, però sono date ad una sola attrice, ad una sola interprete che è stata all'inizio Franca Rame e che stasera sarò io, che interpreta entrambe queste voci, questi poli, no? Questo interagire, quindi una sorta di narrazione interpretata in una lingua, e questa è la grande, diciamo, trasformazione che Dario Fo ha dato alla storia di Medea, prima di tutto secondo me, perché parla, questa attrice si esprime in una lingua rinascimentale, un Gramlot, Dario Fo è un grande inventore, no? Di lingue, di Gramlot, un Gramlot umbro-laziale rinascimentale, diciamo, che è molto bello, molto poetico, lirico e peraltro comprensibilissimo, e che dà questo carattere di popolarità, popolanità alle voci delle donne di Corinto e di Medea. Ecco, quindi insomma c'è un passaggio tra Euripide e Dario Fo, il passo è lungo, non è breve. Poi c'è la seconda parte in cui tu parli di Clitennestra, che è particolare perché è la moglie di Agamennone, ma anche la madre di Elettra e di Ifigenia. Una eroina un po' particolare perché poi uccide Agamennone e comunque deve scontare la morte di Ifigenia anche, no? Certo, dunque Clitennestra, diciamo che tra le eroine del mito greco è forse quella che a me sta più simpatica, perché in fondo non uccide un parente stretto come di sangue, stretto come Medea che uccide i figli, e quindi è sempre anche un momento difficile, devo dire, non facile per me quando la interpreto, per quanto poi può avere tutti i motivi, appunto, che sappiamo, di essere stata cacciata dal marito, dalla sua nuova casa, dalla famiglia, dai figli. Mentre Clitennestra uccide in fondo suo marito e l'amante, concubina di lui, Cassandra, che lui si era portato dietro dopo la guerra di Troia come bottino di guerra, no? Avendo vinto il re Priamo nella famosa guerra di Troia che l'Iliade ci riporta e ci canta. Appunto la Iorsenare, poi la mia drammaturgia, perché devo dire che ho fatto una drammaturgia sul racconto di base della Iorsenare, dà voce a questa a Clitennestra dandole do spazio per spiegare tutte le sue giuste motivazioni. Lei è stata lasciata per 11 anni da sola dal marito, che prima di partire per la guerra di Troia ha persino sacrificato la loro primogenita Ifigenia agli dèi per avere buoni auspici per vincere la guerra. E oltre a questo, il marito, dopo 11 anni, dopo non essersi fatto ovviamente vivo mai, torna con un amante e pretende che questa amante dorma nella stessa casa, nella reggia di Micene, assieme a Clitennestra, e quindi Clitennestra a questo punto non ci vede più, insomma, e decide di ucciderlo in una vasca da bagno mentre lui fa il bagno, assieme con la complicità del suo giovane amante Egisto. E poi, a parte Marguerite Yourcenar, possiamo anche consigliare ai nostri radioascoltatori il famoso libro di Christa Wolf, Cassandra, no? Che certo. Dà la visione di Cassandra. Allora, grazie ad Angela Amalfitano, che abbiamo sentito rilegge le eroine del mito, due donne che però poi alla fine uccidono i propri mariti, no? Perché Medea uccide i figli. No, non i figli, è vero, Medea uccide i figli e Giasone no. Giasone la fa franca anche in quella volta. Purtroppo. Sì, in effetti sono delle riletture, scusami se ti porto via un secondo, sì. Delle riletture con l'occhio di autori del Novecento, uno è Dario Fo e l'altra è la Yourcenar, che danno motivo a queste eroine di riscattarsi in qualche modo, ecco, anche è chiaro che ci sono anche delle venature di un femminismo moderno, come piace definirlo, di un femminismo giusto, contemporaneo, universale, non denotato storicamente nel Novecento, ma universale, insomma. E poi sono anche delle venature, devo dire, in Clitennestra di grottesco, comico, soprattutto all'inizio, questo mi piaceva dirlo perché insomma mi piace fare un teatro che abbia l'alto e il basso, il tragico e il comico in generale, come il mio maestro Leo De Berardinis mi ha insegnato. Allora, Angela Amalfitano rilegge Le rovine del mito con Dario Fo e Marguerite Yourcenar per scoprire qualcosa di più e la contemporaneità di Medea e Clitennestra questa sera a Velia Teatro, area archeologica di Elea Velia, alle ore 21, giusto? Saranno probabilmente le 21:30, insomma, 21 con il buio. Grazie Angela. Grazie a voi, arrivederci. I'm going to Barbinetto, ballo col cinghiale. Cause in Barbinetto, we will never, never, never fall. We are feeling good, the same about all time. I'm going to Barbinetto, col cinghiale. Balla coi cinghiali, come a Woodstock, ma si mangia meglio. 19-20-21 agosto 2010, Barbinetto, Savona. Già, proprio così, abbiamo sentito il logo, lo spot. Qualora voi a un certo punto decideste di fare un po' Asterix in Italia, potete andare a Barbinetto e andare al festival Balla coi cinghiali. È così, Simone Marcenaro? Esattamente, perfettamente così, sono tre giorni, inizia oggi, giovedì 19, venerdì 20, sabato 21, il villaggio d'Asterix più divertente e soprattutto solidale della Liguria. Che cosa succede in questi tre giorni? Molta musica? Molta musica, molta cultura, molta arte. Ci sono sei palchi per tutti i generi, dal rock all'indie, al reggae, al folk, all'elettronica, al blues, ma soprattutto ci sono eventi dalle 9 del mattino alle 3 del mattino dopo che riguardano letteratura, teatro, reading poetici, stage di danza, spazio bambini, insomma un festival per tutte le età, per tutto il pubblico, per tutto il giorno. Voi dite come a Woodstock, ma si mangia meglio, perché in Liguria si mangia bene, sardine, che cosa, cioè si mangia di tutto e di più, ma il teatro, la sezione teatro per esempio, di che cosa parla, che cosa avete in programma? Allora, abbiamo in programma per domani e dopodomani due spettacoli che si terranno nella nostra area Expo, uno dei quali ci piace ricordare Il racconto del fiume rubato, che ricorda la tragica vicenda dell'Acna di Cengio ed è tra l'altro l'ultima rappresentazione di quest'anno di una tournée che ha portato in giro questa piccola compagnia praticamente per tutta Italia. Invece la sezione musica, come abbiamo sentito, ci sono tutti i gruppi musicali più all'avanguardia. Certo. Partiamo dal Teatro degli Orrori, questa sera, un gruppo che ha avuto una grande risonanza nazionale, di Motel Connection, Tyne Tiffany, sul main stage, artisti di fama internazionale, inglesi, giamaicani, sul il palco folk, artisti americani come Jamie Hutchings sul palco e Rain Dogs, che è quello dedicato al blues e al jazz, insomma grandi nomi per la grande musica e soprattutto tutto gratuito. Simone, ma io non ho capito, Barbinetto, no? Quanto è grande? Perché voi avete sei palchi, insomma sembra tipo una metropoli da una parte all'altra della città, come fate? Infatti, Barbinetto è 711 metri sul livello del mare, 700 abitanti. Questo significa che la festa occupa un tre quarti dell'area comunale, infatti il palco dedicato al folk sarà proprio nella piazza del paese, nel centro. E questo è anche bello perché riusciamo a coinvolgere tutto questo paese che ha comunque un certo movimento turistico per il clima e per l'aria buona durante l'estate, e quindi veramente diventa la città della musica per tre giorni e non c'è veramente uguale in tutta la Liguria, forse anche in tutta Italia. Allora, tutti in provincia di Savona. I'm going to Barbinetto, ballo col cinghiale. Cos in Barbinetto, we will never, never, never fall. Da questa sera fino a sabato, come abbiamo sentito da Simone Marcenaro, il festival Balla coi cinghiali. Come a Woodstock, ma si mangia meglio. I cinghiali, come a Woodstock, ma si mangia meglio. 19, 20, 21 agosto 2010, Barbinetto, Savona. Ciao Simone. Ciao, grazie a tutti. We are feeling so good. Io ringrazio con questa atmosfera ligure Valerio Rocchetti in regia, Gloria Guerrera in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a summertime@radio24.it o potete riascoltare la puntata sul nostro sito www.radio24.it per scoprire quello che accade durante questa sera. E allora buona serata a tutti.